44. Quaglie col riso. Fate un battuto con prosciutto e un quarto di una cipolla comune. Mettetelo al fuoco con burro e quando la cipolla avrà preso colore, collocateci le quaglie pulite, sventrate e intere. Conditele con sale e pepe e rosolate che siano. Tiratele a mezza cottura col brodo. Indi versate il riso per cuocerlo con quel tanto di brodo che occorre, insieme con le quaglie. Conditelo quando è cotto col parmigiano e servitelo brodoso o d'asciutto, come più piace, frammisto alle quaglie. 4 quaglie e grammi 400 di riso potranno bastare per 4 persone.